Siete tutti convocati. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Affronta adesso l'ultima curva del Gran Premio del Giappone e per la prima volta in carriera vince il Gran Premio del Sollevante, ed è Sollevante come per lui sempre più leader del campionato mondiale, con Verstappen secondo a proteggersi in modo aggressivo su Lewis Hamilton, che non le ha mandate a dire. So, one in the land of the rising sun. Really good job, Nico. Really good job. Thanks a lot, guys. Amazing weekend, and congrats to the win on the constructors. È la qualifica che contava, poi la partenza, è un po' tutto che conta. Sono contento, è andato veramente bene. Sto weekend perfetto, ottimo, stupendo. Compagno, come ho detto, è sempre lui, sarà sempre una lotta, e lui andrà fortissimo sicuramente, proverà di tutto per tornare, e allora io continuo così, che guardo i weekend e provo a vincere le gare, che questo mi sta andando molto bene. Queste le voci del Gran Premio di Suzuka. 800 24 00 24, chiamate subito per prenotarvi, per intervenire fino alle 19 per parlare di Formula 1, per vivere con noi la vigilia di Macedonia Italia con tutte le polemiche legate anche a Ventura. Sentiremo un attacco di Tavecchio a tutti quelli che criticano Ventura e a qualcuno in particolare. Vorrei sapere cosa ne pensate voi. Si torna indietro di 72 ore a Spagna-Italia, quella prima ora particolare della nostra nazionale, però parliamo anche del Napoli. Cosa succede dopo il grave infortunio a Milik? Fuori 4 mesi almeno, e Napoli che deve cercare disperatamente un attaccante in attesa del mercato di gennaio. 800 24 00 24. Vi aspetto, oppure 349 238 6666, SMS e WhatsApp. Partiamo però dalla Formula 1. Giorgio Terruzzi, ciao. Buonasera, buongiorno. Buonasera a te. Abbiamo sentito il podio, Rosberg, Verstappen, Hamilton, poi parleremo delle Ferrari e della strategia suicida che probabilmente ha negato a Vettel la possibilità di salire sul podio. Mi pare però che con questa mattina a Suzuka Rosberg abbia messo le mani sul titolo mondiale. 33 punti su Hamilton. È quello che pare guardando la classifica. Io credo che ci siano ampi margini per avere delle sorprese, o perlomeno per ritrovare un campione che non c'è, o comunque c'è a sprazzi, che è Hamilton. Però credo che 4 gare significhino molte aperture, molte possibilità ancora, è un po' presto secondo me, considerato anche i trascorsi, dando però a Rosberg una maturità che non aveva forse, una solidità che non aveva, forse quello di stare con questo qua ha imparato. Sì, dopo le vacanze ha fatto 4 vittorie e un terzo posto, ha fatto più di 50 punti in più di Hamilton. La domanda è: dove è finito Hamilton? Oggi la partenza è stata inquietante, praticamente piantato, c'era un po' di umidità dalla sua parte della pista, per carità, si può trovare qualunque tipo di spiegazione tecnica, la verità è che rimane un tallone d'Achille, e la verità è che dal punto di vista psicologico negli ultimi 2 mesi Hamilton è un pilota che ha dimostrato di avere parecchi limiti. Non so, è abbastanza strano, perché è come se fosse meno concentrato, che fosse una priorità non così assoluta tutto quello che sta facendo, perché ha anche un atteggiamento piuttosto dimesso, insomma non c'è mai quella rabbia lì da perdente, da uno che è campione del mondo, insomma è sempre un po' fatalista, un po', che è un atteggiamento curioso secondo me. Va detto che lui stava vincendo bello tranquillo il Gran Premio scorso, cioè non è che poi stiamo parlando di uno che all'improvviso se ne va. Certamente tutto l'anno è tutto l'anno che alterna delle bellissime cose, ha delle cose un po' inspiegabili, un po' delle pause, non so. Ma è rimasto ancora fermo secondo te alla teoria del complotto? Oggi nessun complotto, però magari se gli è entrato il tarlo in testa diventa difficile essere aggressivi, concentrati, propositivi. Ma insomma, non lo so, perché una partenza puoi sbagliarla, il problema è che ne sbaglia tantissime, e sbagliare una partenza è una cosa un po' a sé, cioè può anche essere che una volta vai un po' nel pallone o non esegui una procedura perfetta, però farlo in un momento come questo, dove parti in prima fila col tuo compagno di fianco, con una situazione da raddrizzare, insomma, pesa. L'avesse fatto un altro saremmo qui a dargli del somaro, cioè l'avesse fatto Raikkonen, che peraltro è una cosa che ha fatto, saremmo qui a fare un portone d'esecuzione a lui. Siamo un po' tutti di manica larga, giustamente, perché è uno che merita e si è guadagnato i galloni di fuori classe, però insomma quest'anno merita Rosberg di vincere il mondiale, non è che semplicemente una sfortuna o no. Sì, merita maggior ragione per la capacità con cui ha ribaltato la stagione. Abbiamo citato prima i 52 punti fatti in più dopo le vacanze. Insomma, Rosberg era rientrato a settembre, fine agosto, con il mondiale che sembrava saldamente in mano ad Hamilton. Sì, c'è da dire. Anche se mancavano tante gare, però era quella la traccia, il disegno. Sì, c'è anche da dire che non poteva perderne un altro Rosberg, a differenza di Hamilton. C'è da dire che se sei un pilota di questa Mercedes può arrivare secondo, però non puoi arrivare sempre secondo, quindi ci sta che succeda uno su tre che cambi l'ordine degli addendi, insomma. Però bravo, sei stato bravo. Bravo e bravo. Sì, penso che ci siano parecchi piloti che con quelle macchine lì fanno quei risultati lì, non è che li possono fare solo Hamilton e Rosberg, intendiamoci. No, bravo, e lui è lì e sta facendo quello che deve fare. Un po' come non sta facendo invece la Ferrari, qualche segnale di miglioramento si è visto, non è stato un brutto weekend dal punto di vista delle prestazioni, poi però arriva la scelta del muretto. Io non riesco a capire da osservatore esterno che cosa stia succedendo, perché sono errori che poi si ripetono. Sì, insomma, sembra un po' una sequenza, una collezione, no? Una volta sbaglia il pilota, non so. Oggi, senza la chiamata sulle gomme, Vettel sarebbe arrivato sul podio o no? Beh, era più probabile, se non altro poteva giocarsela. Lui si è preso una responsabilità sulla scelta, cioè lui ha detto abbiamo deciso insieme. Il problema è che Vettel forse va un po' gestito in questo momento, perché ha una foga da uno che è scontento, che ha voglia di raddrizzare il bilancio, che insomma non è che sia proprio... Ha la propensione a rischiare. Sì, insomma ha fatto un marone la settimana scorsa, insomma è partito indietro, due macchine penalizzate sulla partenza in una gara con distacchi finalmente ridotti in qualifica. Forse era il caso di copiare gli altri stavolta e provare a giocarsela, però sono discorsi sempre facili dopo. Però insomma ognuno si prende responsabilità delle scelte che fanno, sono professionisti lì. Purtroppo c'è sempre un inghippo, o di sfortuna, o di rottura, o di errori. Fatto sta che non so fino a che punto può permettersi sta scuderia qui di offrire un po' questa amarezza, no? Perché già star dietro alla Formula 1 è complicato. In più la Ferrari che insomma non ti dà mai un sorriso, non so come dire, no? Sì, è mai una gioia, per copiare, per parafrasare quelli che erano i commenti, gli sfottò anche fra tanti tifosi. Io credo che ci sia anche un legame col fatto che per la prima volta Vettel sia stato un po' messo in discussione nell'universo Ferrari. Abbiamo sentito le parole di arriva bene sul rinnovo, deve guadagnarselo, deve pensare solo a guidare, non deve pensare a fare tutto il resto, che significa anche allontanare il paragone con Schumacher, se vogliamo, che era un uomo scuderia. Sì, il problema bisogna capire se è Vettel che sta pensando cosa fare, perché a me ricorda un po' un momento simile che ha vissuto Alonso, cioè il momento in cui l'entusiasmo svanisce un po' e sei preoccupato perché tu sei un pilota che è abituato a vincere e che vuole continuare a vincere. Quindi secondo me è un momento molto delicato dentro gli equilibri della Ferrari, no? pur trattandosi di un ragazzo di primissimo ordine, qui non stiamo mettendo in discussione Vettel in assoluto. Secondo me è un momento difficile, perché guardando avanti, uno come lui che non ha pazienza, perché non sta al suo rango averla, forse è un po' in difficoltà. Sì, è un po' finita la luna di miele, ma da tutte e due le parti. Grazie Giorgio. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Grazie a Giorgio Terruzzi. C'è un amico che scrive al 349-238-6666 che il problema della Ferrari è tecnico ed è un problema così ormai da anni, e mi sento di sottoscrivere, così mi sento come mi sento di sottoscrivere chi sottolinea che il quarto posto non è un risultato che può esaltare la Ferrari a Suzuka, ed è assolutamente vero, semmai qualche segnale positivo lo abbiamo avuto in tutto il weekend, vedendo finalmente le Ferrari più vicine, e anche in gara prima della scelta sulle gomme c'era stato qualche segnale positivo da Vettel, però di sicuro il bilancio complessivo è negativo. 800 24 00 24, c'è il traffico, e poi torniamo parlando di Ventura e di Macedonia Italia questa sera, ore 20:45, non si può sbagliare. Tutti convocati. Benvenuto, questo è Mikasa. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Tutti convocati. Ma io credo che dovremmo fare un passo avanti sul piano della personalità, sulla crescita dei giovani. Vedremo quanti giovani ci saranno in campo e capiremo che abbiamo iniziato una strada per far sì che l'Italia riesca ad andare avanti, costruendo piano piano e facendo crescere piano piano, perché in Italia non si può fare tutto velocemente, tutto e subito non si può fare da nessuna parte. Un capitale importante della nazionale italiana, no? Uno dei giovani più importanti in assoluto, quindi su cui costruire possibilmente il futuro di questa nazionale. Se poi Verratti non ha giocato è perché ci sono dei problemi, non drammatici, ma c'era una necessità di gestione. Se tutto va bene, sì, Verratti giocherà. Scetticismo è dal primo giorno che è così, ma questo lo doveva mettere in preventivo, lo elimini strada facendo, attraverso il lavoro, attraverso piano piano le prestazioni, attraverso i risultati e non attraverso le parole. Siamo partiti da una situazione di difficoltà, tra virgolette, rispetto alla fine di un grande europeo, però prima del grande europeo non c'erano state grandi partite, perché in realtà quando hai poco tempo diventa obiettivamente difficile. Io l'ho detto venerdì, io ho tanta nostalgia di Antonio Conte, ma non è un problema di Ventura. Il problema è che ci stiamo rendendo conto che Antonio Conte era il valore aggiunto della nazionale, di una nazionale che ha una qualità che è quella che è, e che insomma non è forse a livello delle altre grandissime nazionali. 800 24 00 24, voglio sapere cosa ne pensate anche voi di Ventura, di questa nazionale. Saluto Marco Nosotti, collega di Sky. Ciao Marco. Ciao Antonio, ciao a tutti. Aspetta che prima c'è Silvano da Milano che ci aspetta da qualche minuto. Silvano. Ah, salve, buonasera. Eccoci. Sono intervenuto perché volevo intervenire in questo modo. Io ho 13 anni, abitavo vicino a San Siro e andavo a vedere tutte le partite ed ero un tifoso. Sì. E questo non mi permetteva di giudicare bene le partite. Poi diventando grande, diventando maturo, il lavoro, i figli, mi ha permesso di guardare le partite non più da tifoso, da sportivo. Beh, vi posso garantire che c'è da divertirsi. Andare a vedere la partita, i nostri ragazzi nel primo tempo non c'erano per niente, si vedeva, non sono io a dirlo, per carità. Sì, hanno fatto una partita un po' timida. Esatto, ci si chiedeva nel secondo tempo se ci sono, e c'erano. Quindi abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo cambiato parecchi giocatori, era da vedere se nel secondo tempo tirano fuori quello che c'era, e c'è, perché in Italia, al di là di tutto quello che si dice, Ma ci sono molte eccellenze, i nostri ragazzi sono in gamba, dategli tempo e fiducia e arriveranno, ma guardandoli non da tifosi, da sportivi. Ho capito Silvano, grazie. Marco Nosotti, è un po' la tesi di Ventura, cioè sì, quello sì, che lui ha visto nell'ultima mezz'ora gli fa dire che l'Italia c'è, forte, si può qualificare con le sue gambe, con le sue forze, che quello che si è visto sì, prima era da aspettarselo. Io non so come la pensi tu. Guarda, sì, allora tornando a quello che dicevi di Antonio Conte, che non l'ho raggiunto senz'altro, perché aveva ottenuto il lasciapassare, quello cambiare in bianco da tutto il gruppo insieme, che non stavano insieme solo perché sono amici, non è importante essere amici, cioè, si passava la palla non perché è bello essere solidari, ma perché si vince e perché questo è l'essere squadra, sono le tante cose. Lui riusciva a mettere insieme queste cose e tenerle tutte nello stesso momento. Ora c'è stato una sorta di abbandono, considerazione da parte dello stesso gruppo che dice deve rapportarsi con altri modi di intendere il calcio, non dico migliori o peggiori. E allora è più o meno facile fare breccia di nuovo nei quadri questi, perché quando tu puoi metterci tutta la tattica che vuoi, ma le motivazioni e le gambe ci vogliono. Poi c'è poco tempo e si chiede subito il risultato, perché se adesso l'ho detto a Ventura, guarda, fai così, a noi non interessa andare al mondiale, tirici fuori 15 giovani. Possiamo sperimentare, possiamo anche perdere. Ma insomma, ci manca che l'Italia possa rassegnarsi e non andare al mondiale. Esattamente. E allora dice, ecco che in poco tempo ha dovuto mediare le due cose, io lo capisco. Però i giovani ci sono, li tirerà fuori, che adesso partono anche questi stage. Spero che non li faccia giocare soltanto nelle amichevole di giugno, ma che se ha delle idee di calcio, perché il suo calcio non è solo il 3-5-2, ma è stato anche e soprattutto il 4-2-4, no? Spero che venga fuori utilizzando i giovani e utilizzando tanti esterni, tanti giocatori di qualità che giocano in altri ruoli che forse il 3-5-2 penalizzerebbe. Però è vero, i giovani ci sono. Ma secondo te Ventura, certo, oggi c'è una nazionale di Under 25, poi ne parliamo. Tu però conosci molto bene Gian Piero Ventura, conosci molto bene l'ambiente federale, conosci molto bene che aria si respira a Coverciano. Secondo te Ventura un po' le sta subendo queste pressioni? Bravo, è quello che lui ha detto, sai, anche il discorso del Conte è un fantasma pesante, poi c'è un clima intorno a lui per cui non va bene neanche come si pone in campo, perché tiene le mani in tasca, ecco. Insomma, diciamo la verità, per molti tifosi Ventura non è stata neanche una seconda scelta, una terza, una quarta, una quinta. Ho l'impressione anch'io che lo ritengano così e gli abbiano affibbiato un'etichetta, come solito fare, siamo soliti fare in questo calcio, no? E allora io credo che invece avrebbe bisogno di un pizzico di disponibilità da parte di tutti, ad accettare anche la difficoltà, la figuraccia, lo scivolone, perché stanno provando a costruire, stanno provando a portare una mentalità diversa, però ti assicuro che lo scetticismo di cui lui parla c'è. Anche negli addetti ai lavori, quello è vero, si vede. Certo. Ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati. Sì. 349-238-6666. Il primo dice: meglio vincere 1-0 su autogol, ma giocando alla grande piuttosto che strapazzare i macedoni con rigori e prestazioni personali. Io non so che cosa sceglierebbe Ventura stasera. Forse il 4-0 lo mette un po' tranquillo, poi dopo. La Spagna ne ha fatti 8 a Liechtenstein. Con il pareggio che abbiamo fatto in casa, o andiamo a vincere, o se no, ragazzi, si gioca per il secondo posto. Perché sempre ci sono tifando il nostro amico De Biasi, eh? Sempre tifando il nostro amico De Biasi. Io Gianni voglio bene, anche perché poi è stato l'allenatore della Longobarda che ha fatto piangere di gioia il gialloblu di Modena, quindi tutti i tifosi di Modena. Quindi detto questo, però bisogna vincere assolutamente, questo è il discorso. Penso che nel roadbook, quelli che dicono le parole difficili, dico il piano di lavoro di questo all'inizio di tutto ci fosse, vabbè, vediamo cosa succede con la Spagna, prendiamo un punto lì, assolutamente devi fare 3 in Macedonia. Sì. Adesso vediamo. Sì, restiamo vivi fino al 2 settembre 2017, poi si vedrà come ci si arriva in quel momento e che cosa succede. 2 settembre 2017 è il giorno di Spagna-Italia. Bravo, è Spagna-Italia. Io lo dico da un mese e mezzo, peggio di quella data non si poteva scegliere. 2 settembre, segnatevelo. arriveremo senza condizione con i nostri soliti problemi di inizio settembre. Ma solito l'estate, tanto sarà un'estate, ne parleremo per tutta l'estate, poi andranno tutti in montagna, al mare, così tornano, devono mettere a posto quella data lì. Per noi italiani quella data del calendario FIFA UEFA sì, è impossibile, però come abbiamo visto l'altra sera, caro Antonio, non è mica obbligatorio tenere la palla, soprattutto se gli altri sono più bravi a tenerla, che sì, se la tengono, sì. L'importante è che quando ce l'hai tu non sia così passivo come siamo stati per un'ora. Riesca magari a fare quei due o tre passaggi di fila, quelle cose che abbiamo fatto fatica a vedere. Sì. Innanzitutto complimenti vivissimi per la trasmissione. Sì. Abbiamo Arrigo Sacchi, Marco, hai capito? Sì. Saluto anche l'amico Nosotti. Sì. Se mi permettete, però vorrei finire la mia lettera, quella pubblicata sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Sai, tra l'altro, si è arrabbiato anche Tavecchio. Guardi, sì, io lo farò con la modestia che mi contraddistingue. Io che molto probabilmente ho rivoluzionato il calcio moderno, sì, prima di me gabbie e ripartenze non esistevano. No. Io che sono il grande padre del calcio. Sì. Dunque, ecco, se potete mandarmi per cortesia la base adeguata, quella bella che mi ha fatto sentire prima la signorina Schiattone. Ma non è sua trasmissione. Caro, no, mi lasci leggere questa lettera che è importante. Caro Giampiero, così non va. Ma questo l'ha scritto sulla Gazzetta, non è che si legge. Se mi lasci a parlare per cortesia, tu che hai dato la vita al calcio, ma che il calcio oggi te lo darei tutta la vita io, ma nel sedere. Tu che da qualche giorno mi hai costretto a non uscire di casa dalla vergogna. E quando qualcuno mi chiedeva, mister, ha visto la partita? Mentendo spudoratamente rispondevo, giuro sulla testa di Ventura che non so di cosa stiate parlando. Caro Giampiero, sì, così non va. Al momento del coglion al capita tot, ma te è durato 70 minuti, socia la miseria. Caro Giampiero, così non va. Lo spettacolo offerto giovedì scorso dalla nazionale è stato francamente imbarazzante. Vabbè, ma ci sarà stato qualcosa di buono. E te lo dico con l'umiltà del grande padre del calcio. È vero che la Spagna è maestra nel possesso della palla, sì, ma è anche vero che tu giovedì sei stato il maestro nel provocare l'infiammazione della palla, in termini medici meglio conosciuta come orchite. Caro Giampiero, abbiamo il meteo. Così arrivo, non arrivo. Va. Così non va. Marco, cosa ci possiamo fare? È al nostro Andrew Mercù. Bellissimo. Però dopo lo sentiamo, Tavecchio gliel'ha lanciata oggi la frecciatina ad Arrigo Sacchi, il grande padre del calcio. Io sono il grande padre del calcio. Sì, vabbè, lo sa anche Nosotti? Sì, è vero. Anche se qualche volta diciamo se la tira un po' troppo. No, ma è solo perché siete conterranei che andate d'accordo. Esattamente. Sono perfettamente solo d'accordo. Grazie Marco. Un saluto a tutti, salute, Forza Azzurri. Salute, caro Nosotti. Salute. Grazie Marco Nosotti. 800 24 00 24. Meteo, un po' di pubblicità, insomma, due minuti, torniamo. Tutti convocati. Ma lo stadio che devono fare? Scusa, la partita deve giocare. Mica ce l'ho andato a fare la spesa allo stadio io. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Tutti convocati. Paolo Maldini farebbe bene a questo Milan. Non lo so, ma io non posso parlare della società futura. Io mi rapporto ai dirigenti di oggi che hanno fatto grande Milan e stanno provando a fare di nuovo grande la società, il Milan stesso, quindi non sta a me occuparmene. Io posso solo dire che Paolo è una persona, per quanto e per come l'ho conosciuta, straordinaria, una persona seria. Poi per il resto non sono valutazioni che devo fare io. Questo Montella ieri a chiusura della settimana sulle montagne russe del Milan, prima l'euforia per la rimonta col Sassuolo, poi la fine della suggestione Maldini, poi l'infortunio di Montolivo, poi le speranze cinesi, le parole di Mino Raiola su Donnarumma, il suo futuro, che inquietano, raccolte da Xavier Iacobelli sul Corriere dello Sport. Xavier Iacobelli, che saluto intanto. Ciao, buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli amici ascoltatori del Corriere dello Sport. Adesso ne parliamo. Prima però 800 24 00 24, c'è Paola da Roma. Io leggo anche un messaggio che arriva: Donadoni e Prandelli hanno fatto meglio di Conte in nazionale, ma voi continuate a raccontare balle su uno che non ha mai vinto nulla con la nazionale. Ma io non ho, nessuno sta mettendo in dubbio il valore di Donadoni e Prandelli, e nemmeno quello di Ventura. Dico solo che dall'altro giorno a me è venuta nostalgia di Conte nel vedere la stessa nazionale giocare con la metà della ferocia agonistica. Se la pensate diversamente, chiamate e cercate di convincerci. Paola da Roma, Paola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno a te. Ecco, io vorrei convincervi perché mi sembra un'ingiustizia nei confronti di Ventura, la stessa ingiustizia che ha subito Ranieri per poi andare a vincere l'Ester e venire osannato. A volte noi in Italia ci creiamo dei miti, no? Forse perché sono simpatici o hanno empatia, hanno caratteristiche particolari, mediatiche, umane, ferocia. Cioè, un atleta non deve essere feroce, deve essere intelligente, capace e conoscitore. Poi deve anche trasmettere e trasferire, però non è che deve trasferire ferocia, deve trasferire capacità. No, ma per ferocia, Paola, si intendeva intensità, si intende quella cosa che abbiamo visto all'Europeo, capito, e che ha spinto l'Italia sopra i suoi limiti, questo sì, è il tema. Però non ha vinto all'Europeo l'Italia. Non era nemmeno facile. Sentiamo cosa ne pensa Xavier Iacobelli, tema aperto, su Ventura. No, io penso che Ventura abbia il sacrosanto diritto di lavorare in pace. Siamo alla terza partita che ha disputato alla guida della nazionale, compresa l'amichevole con la Francia, adesso c'è la Macedonia. Il suo obiettivo, il compito, il traguardo che la federazione gli ha chiesto di tagliare è quello della qualificazione a Russia 2018, e non sarà facile visto che c'è la Spagna nel girone, ma c'è anche l'Albania e De Biasi, che non è assolutamente di valutare. Dopodiché era normale che Ventura accusasse difficoltà all'inizio, primo per l'eredità di Conte, perché comunque è vero che non abbiamo vinto gli europei, ma la nazionale che abbiamo ammirato, apprezzato, che ci ha entusiasmato agli europei, è stata una grande nazionale. Secondo, perché è chiaro che non potrà mai essere la squadra di Conte, non fosse altro perché in panchina non c'è più Conte, e sarà un'altra squadra perché già contro la Macedonia questa sera ci sono i segnali del cambiamento, che poi si è costretto a lanciarli perché Chiellini non ha recuperato per l'infortunio del polpaccio, e quindi viene confermato Romagnoli, che ha giocato benissimo. Immobile e Belotti partono dall'inizio perché nella fase finale della partita con la Spagna hanno cambiato l'incontro, l'andamento della gara con gli iberici. Però la strada è tracciata, aspettiamo che Ventura lavori in pace, vediamo che risultati otterrà, a cominciare già da questa sera, però ha il diritto di essere giudicato non dopo tre partite sulla panchina della nazionale, così come sono stati giudicati i suoi predecessori. Sì, che tra l'altro tutti hanno avuto comunque paragoni spesso ingombranti con chi li aveva preceduti. Oh, giustamente tu facevi riferimento ai giovani, oggi sarà seduto soltanto in panchina Donnarumma, che è già credo una certezza. Oggi sul Corriere dello Sport le parole di Mino Raiola: Donnarumma diventerà il più forte al mondo, se resta al Milan o no dipende dai progetti dei cinesi, non è nemmeno una questione di soldi e di contratto. Io ho l'impressione che con oggi si sia aperta la parabola lunga che contraddistingue sempre le trattative con i giocatori che hanno Mino Raiola come agente. Ah, Mino Raiola fa benissimo il suo mestiere, altrimenti non avrebbe firmato qualcosa come 300 milioni di euro di buoni affari andati in porto, vedendo lui coprotagonista di queste operazioni. Io credo che il suo discorso sia un discorso molto chiaro, io apprezzo le persone che parlano in modo schietto. Raiola dice: Donnarumma è un fenomeno, perché questa è la definizione che si attaglia ad un ragazzo che a 16 anni ha debuttato in Serie A, e il Milan non la smetterà mai di essere grato a Sinisa Mihajlovic per aver avuto il coraggio di lanciarlo nel massimo campionato così giovane, anzi giovanissimo. Da un anno è titolare inamovibile dei pali del Milan, gioca a San Siro con la disinvoltura, la determinazione di un veterano, è diventato il vice Buffon. È chiaro che se continua a progredire così, e ne ha soltanto 17 anni, sarà al centro dell'attenzione dello United, del Barcellona, del Paris Saint-Germain, della Juventus, che ovviamente comincia... Tu ci credi a Donnarumma, erede di Buffon alla Juve? Io credo a Donnarumma, erede di Buffon alla Nazionale. E poi, dopodiché, vediamo, perché c'è ancora molto da fare. In Italia abbiamo questa malattia che è il dopoismo, cosa accadrà sempre dopo. Cominciamo a vedere il presente, stiamo parlando di un ragazzo di 17 anni. I cinesi devono dimostrare sul campo, in pratica, con progetti molto concreti, che cosa intendano fare. Il fatto che 100 milioni di euro siano stati versati all'inizio di settembre, addirittura con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, che la trattativa con il consorzio cinese chiuderà entro la fine di novembre, che fra le nove aziende, fra i nove soggetti, imprenditori e gruppi imprenditoriali presenti nel consorzio cinese ci sia il terzo produttore al mondo di televisioni dopo Sony e Samsung, che ha un fatturato anno di 16 miliardi di dollari. Tu dici, è una garanzia di serietà e di progetti. Stupirei molto, anche perché io non credo che chiunque sia disposto a versare 100 milioni di euro e poi ad andarsene. Quindi dipenderà molto da cosa faranno i cinesi, e soprattutto se in gennaio il Milan sarà ancora, come auspicano ovviamente i tifosi rossoneri, nelle posizioni di vertice del campionato, certamente la nuova proprietà provvederà almeno a due grandi acquisti, soprattutto a centrocampo, tanto è vero che il nome di Fabregas è tornato prepotentemente alla ribalta, così come quello di Pater. Sì, per cercare di puntellare il progetto. Abbiamo un minuto. Io ho letto un altro bel pezzo di Xavier Iacobelli di un paio di giorni fa. Mi dici in sintesi, secondo te, chi ha sbagliato di più tra Maldini e chi gli offriva un posto nel Milan? Ma nessuno ha sbagliato, ognuno ha preso la propria decisione, soprattutto l'ha presa Maldini, sebbene io ritenga che la partita non sia ancora chiusa, perché la nuova proprietà, e cioè nella fattispecie Fassone, aspetterà ancora. La prossima settimana Fassone volerà in Cina per fare il punto della situazione e parlerà sicuramente della questione Maldini. Io mi auguro che Maldini ci ripensi. Comprendo la sua richiesta legittima di chiarezza e anche di autonomia decisionale. Ricordo però che la gamma di intervento prevista dal suo nuovo incarico è molto ampia, va dalla direzione tecnica alla rappresentanza politica del Milan in sede FIFA, UEFA, ECA, Lega, Federcalcio, ai rapporti con la squadra, ad un ruolo che è fondamentale perché il nuovo Milan ha più che mai bisogno di Maldini, e anche Karl-Heinz Rummenigge, per esempio, ha cominciato passo dopo passo la sua carriera, che ora lo vede direttore amministrativo del Bayern Monaco dopo esserne stato vicepresidente e amministratore delegato. Spero che Maldini cambi idea, perché il Milan ha bisogno di questo straordinario fuori classe. C'è spazio ancora. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio dal Corriere dello Sport. Grazie a Xavier Iacobelli, mi piace sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24, il traffico, poi vi raccontiamo qualcosa di molto curioso dietro l'addio di Sabatini alla Roma. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Tutti convocati. Lo sai, cammino ancora piano nella città che mi guarda, perso nel blu mentre fumo una paglia. La realtà ogni giorno mi parla, io non ne posso più, però non posso ignorarla. Ogni giorno che passa è una battaglia, la luna illumina la strada e mi scalda. Io sono incline alla mia sofferenza notturna, che mi sparacchio 5 sigarette, mi vedo un soggetto e cerco di capire se è bravo o no, poi mi confondo qualche volta, raramente, e prendo Piris, povero Piris. Che un lupo come me ha la pelle dura, le stelle pregano, la notte più scura, è tempo di un'altra avventura, se sei giù con me non c'è più da aver paura. Il presidente e i suoi collaboratori adorano la statistica, adorano questo tipo, stanno cercando un algoritmo vincente. Io vivo ancora dentro il mio istinto, la mia immaginazione, perché le statistiche tradiscono, aiutano ma tradiscono. Credo a quello che osservo, credo a quello che sento quando vedo un giocatore. Questa è la saga di un lupo solitario. Tengo i sensi allerta, giro col mio branco, la schiena coperta. Ogni mia scoperta, ogni porta aperta, ogni cosa certa, la sfrutterò e la svelta. Pallotta è un bostoniano allegro, propositivo, incline allo studio della statistica, alla frequentazione di meeting. Io sono un europeo crepuscolare, solitario. Sono un etrusco residuale. Ogni giorno è straordinario. Questa è la saga di un lupo solitario. Ci abbiamo romanzato un po' su, però il tema è interessante. Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, buonasera. ciao a tutti, buonasera. Ci aiuti un po' a capire che cosa c'è dietro l'addio di Sabatini. Oggi hai scritto un pezzo bellissimo, secondo me, una paginata che racconta come ci sia questo contrasto tra quelli che cercano l'algoritmo vincente per fare il mercato e quelli come Sabatini. Sì, come ho scritto, un po' il santo graal, l'algoritmo vincente, no? In realtà credo che la verità sia un po' nel mezzo, nel senso che credo in qualche modo nell'aiuto della statistica, dei numeri, soprattutto dei big data, cioè dei grandi volumi di numeri, però non credo che siano, come dire, fondamentali e serve qualcos'altro per individuare il singolo giocatore. Serve l'occhio e qualche sigaretta, non perché vogliamo far sì, pubblicità alle sigarette, ma insomma servono anche quelli come Sabatini soprattutto. Che cos'è esattamente tag.bio? Ma da quel poco che so, perché ieri abbiamo provato anche a interpellare Alex Zecca, che è l'uomo, il collaboratore di Pallotta, che ha prodotto, che ha portato su sollecitazione evidentemente del figlio di Pallotta questo software alla Roma, e non ha voluto rispondere perché sono cose segrete. Quindi chi riesce a elaborare un modello matematico, a me era già capitato intervistando Billy Bean un paio di anni fa, se lo tiene stretto. Sarebbe credo anche di difficile comprensione per chi non ha una cultura matematica approfondita. Credo di aver capito che è un software che tramite l'analisi dei dati, algoritmi eccetera, riesca a individuare dei, in questo caso, giocatori in grado, cioè capaci di essere acquistati, sì, e magari sconosciuti e meno costosi di quelli che vanno per la migliore. Sì, il principio ispiratore è quello sia di Billy Bean, il famoso Moneyball, ma sia di, se vogliamo, anche Sabatini, cioè quello di individuare il calciatore che ancora è poco noto e dunque costa poco, ma dalle grandi e sottovalutate potenzialità. Sì, poi alle volte ci sono dei risvolti anche comici, cioè se l'algoritmo ti dice vendi Strootman e prendi Magnanelli, che per carità è un ottimo giocatore, però... Sì, quello che pensavo ieri mentre scrivevo il pezzo è che non si può chiedere l'infallibilità né a Sabatini, io ho ricordato il povero Piris, lo ha ricordato lui stesso, si sbaglia raramente, ha detto, virgolettato Sabatini, credo non ci si possa attendere ancora l'infallibilità neanche dall'algoritmo, neanche dalla matematica. Chissà se l'algoritmo di Pallotta gli farà fare 170 milioni di plusvalenze nei prossimi 5 anni. Ad esempio, giusto per restare all'analisi dei numeri, No, credo di no, però non lo so, ti ripeto, l'approfondimento statistico sta raggiungendo veramente dei livelli, io ho visto delle cose... Ma arriveremo alla rottamazione degli osservatori? Sai qual è il problema? Che non tutti possono avere Sabatini. Di Sabatini ce n'è uno, e poi ci sono molti. Adesso è libero, altri. Ve lo diciamo. No, è libero per poco. Infatti è libero per poco, perché se io fossi in una società la prima cosa che faccio è chiamare Sabatini, però mi rendo conto che magari è una visione di parte, però mi rendo anche conto che non tutti hanno Sabatini, cioè non tutti hanno un occhio così allenato e così capace di individuare il calciatore giusto. Sì, rispondiamo e poi ti salutiamo e ti ringraziamo. C'è chi dice nel baseball le statistiche abbondano, in tanti sport, il calcio però è un po' particolare da questo punto di vista, è più difficilmente classificabile. Assolutamente, molto più difficile da classificare, però io torno a citare Billy Bean, da me intervistato un paio di anni fa, quando loro individuarono le statistiche da utilizzare per l'acquisto dei giocatori, mi ha detto, quelle pubblicate da 100 anni sui giornali americani, noi non le guardiamo neanche, sono cose, diciamo, per la massa. Penso che sia lo stesso per il calcio, nel senso che noi guardiamo, utilizziamo anche noi la Gazzetta, i passaggi completati, i tackle, i intercetti, i palloni recuperati, c'è una serie di dati, ma si va molto più a fondo nell'analisi statistica per questo tipo di operazioni. Molto più in profondità. Grazie Alex. Grazie a voi. Grazie Alex Frosio, Gazzetta dello Sport. Chissà se un giorno verranno rottamati allenatori e osservatori e ci sarà l'algoritmo. 800 24 00 24. Dopo il GR arriva Pierluigi Pardo per rispondere a tutte le vostre domande. e torniamo ancora sulla vigilia dell'Italia in Macedonia. Io non gliela faccio più, ragazzi, cioè non gliela faccio molto, mi intrattengo volentieri, ma oh, mi fate fumare una sigaretta, scusate, mi tranquillizza, sennò facciamo un minuto di pausa. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Su Ventura c'è ancora un certo scetticismo nei suoi confronti. Come si fa a cancellare questo scetticismo? Io leggo anche voi. Poi leggo i grandi padri del calcio, tutti fanno discorsi. Se ci avessero detto prima della partita che pareggiavamo con la Spagna eravamo tutti contenti, perché tutti erano l'ostacolo più importante. Abbiamo rischiato addirittura di vincere. Lasciamolo lavorare, è una persona molto seria, una persona che non ha grandi modi di apparire, è più una persona del concreto. Straconvinto della scelta? Straconvinto della scelta. Siamo solo al 9 ottobre, straconvinto della scelta di Ventura, sì o no? Avete sentito Tavecchio che se l'è presa coi grandi padri del calcio che criticano Ventura e la partita con la Spagna. 800 24 00 24, carissimo Pier, ciao. Ciao, come va? Siamo ancora lì? No, va bene. Mi sembra vada un po' meno bene intorno alla nazionale di Ventura, poi questa sera tutti belli uniti a tifare perché serve il successo, però insomma Tavecchio di questa mattina, e quindi che si senta intorno a Ventura un clima un po' particolare, ce lo raccontava prima anche Marco Nosotti, che conosce bene che cosa succede a Coverciano e dintorni. Sì, io però credo insomma sinceramente che Tavecchio insomma abbia ragione quando dice che si deve dare fiducia a Ventura. Stiamo parlando di un presidente federale che lo strappo l'ha fatto 2 anni fa quando prese Conte, cioè nella storia della nostra nazionale una scelta come quella di Ventura è una scelta abbastanza tradizionale, abbastanza consueta. La vera anomalia è stata andare a prendere anche l'opportunità a Conte 2 anni fa, ed è una scelta che Tavecchio ha fatto in maniera entusiastica, anche con qualche critica, lo ricorderete, no? E io lo considero uno dei capolavori della gestione di Tavecchio, che poi basta sentirlo parlare in mille momenti per sì, capire oggi che oggi però c'è il rischio e stiamo correndo il rischio che Ventura sia letto un po' come un piano B, C, D a seconda, no, ma insomma. Ragazzi, ma gli allenatori delle nazionali sono questi, rispetto per Ventura che è poi uno molto bravo, gli allenatori delle nazionali sono appunto Prandelli, non sono i numeri uno sul mercato, sono dei bravi allenatori, ma ribadisco, ormai è un disco rotto, cioè Non allenano nazionale Guardiola, non allenano nazionale Ancelotti, non allenano nazionale Mourinho. Se questo succede è perché evidentemente sono piani B, no? Piani B di grandissimo lusso, di grande qualità, nel caso di Ventura secondo me di assoluta qualità, indiscutibile qualità, come nel caso di Prandelli, cioè sono allenatori o emergenti o allenatori storici, o addirittura una volta c'erano gli allenatori della scuola di Coverciano. Quindi questa è la... Sì, l'anomalia era quella di prima. Intanto ha segnato Bale con il Galles 1, Georgia 0, siamo al decimo minuto, Galles che in questo momento sale a quota 7, vi ricordiamo, lo abbiamo detto, che anche Israele sta vincendo contro Liechtenstein 1-0, partita che interessa il nostro girone. 800 24 00 24, il tema piace però, Pier, abbiamo Lorenzo, Luigi e Antonio, partiamo da Lorenzo. Sì, salve. Ciao, sono Lorenzo da Vicenza. No, volevo dire la mia sventura. Sì. Intanto volevo partire con una battuta. Se Pelé è stato mandato via per quel gesto lì, Balotelli non giocherà mai praticamente. Dopo ne parliamo. No. Noi abbiamo detto venerdì cosa ne pensiamo dell'esclusione di Pelé, e io e Pierre eravamo abbastanza d'accordo, però poi qualcuno ha fatto anche altre considerazioni che sono degne di essere citate. Prego, penso, Lorenzo. Essendo un po' un uomo di calcio, io nel senso del mio piccolo, che comunque essendo potevi anche prendere Pelé da parte e fargli la manzina da parte, perché sai che una cosa così andava in TV a livello nazionale, al limite non farlo giocare, però non salta fuori tutto sto casino, diciamo, no? Pier, io non so cosa pensi tu, c'è chi ha detto anche gli altri grandi ribelli della nazionale, da Chinaglia in poi, ma nessuno ha fatto le valigie ed è tornato a casa. Perché Pellè deve essere trattato in maniera così plateale? Perché ognuno ha le sue regole, perché ogni gruppo ha le sue regole. Io non so dirti, un po' come dicevo l'altro giorno, nessuno di noi, secondo me, ha la certezza matematica che sia stata fatta la scelta giusta, nessuno di noi ha la certezza matematica però che sia stata fatta la scelta sbagliata. È stata fatta una scelta che, per quella che è la valutazione psicologica legata al suo carisma e al suo rapporto col gruppo da parte dell'allenatore, era la soluzione più logica e più utile. Non sappiamo dire al 100% se questa scelta sia giusta o sbagliata. Certamente è un segnale che Ventura ha voluto dare, è all'inizio di un percorso, quindi secondo me l'aspetto delle regole, dello stare insieme è fondamentale, quindi probabilmente il fatto che questo tipo di episodio sia avvenuto nella seconda partita di qualificazione è abbastanza importante, perché significa proprio che in questo momento qui bisogna mettere i paletti. Bisogna dare l'esempio. Mettere i paletti. Quindi a me sembra, scusate, qua c'è un carretto. A me sembra una scelta di buon senso. Che poi ormai noi siamo in un'epoca nella quale non c'è più equilibrio, perché un po' sono anche i social network. Per lei sembra un nemico della patria, no? A leggere certi commenti. Ed è una follia, insomma, una follia. Sì, è semplicemente uno che ha sbagliato. È uno che ha sbagliato, punto. Che ha fatto una cazzata l'altro giorno, ha avuto una reazione di istinto sbagliata e adesso paga. E vedremo se ci sarà ancora spazio per lui. Questa è, secondo me, la logica. Quindi non è un delinquente per lei e non è un cretino Ventura ad averlo mandato via. L'ha mandato via perché pensa che in questo momento sia utile. Chi la legge con qualche retropensiero dice è stato anche un modo per provare comunque a dare forza a un CT che sta facendo un po' fatica a livello di approccio proprio dentro il gruppo e dentro l'ambiente. Luigi da Firenze, dai, prima del traffico. Luigi. Sì, grazie. Eccoci. Buonasera. Il mio intervento è stato un po' bruciato da questo precedente perché volevo parlare proprio di Pellè. Dai. Innanzitutto concordo con chi difende Ventura perché dopo tre partite ha il diritto di non essere giudicato, come diceva il dottor Jacobelli prima. Però Pellè, ricordiamoci, ha un precedente, il gesto dello scavetto che ha fatto a Neuer, quella sbruffonaggia, poi ha sbagliato anche il rigore fatta agli europei. Questo l'ha fatto gli europei, ieri non dà la mano a Ventura, ma questi giocatori sono miliardari, coccolati e soprattutto professionisti. Io penso, quando giocavo io nelle squadre dilettanti, se avessi fatto una cosa del genere non giocavo per 4 mesi. Quindi se io fossi Ventura, per lei tribuna tutta la vita. Bah, insomma, io credo che ci sia poi spazio per tutti, magari ci sarà spazio anche per Pellè, e ripeto quello che abbiamo detto venerdì, lo diceva anche Pierluigi, ha ragione, è giusto che sia stato punito, magari discutiamo sul modo, però qui fermiamoci, le regole vanno messe. Beh, sì. Approfitto allora, perché non ci siamo capiti, intanto saluto Stoperone Pardo. Ciao, maestro. Ciao Stoperone Pardo, semplicemente voi mi avete travisato perché sì. Io no, sai che prima ci ha ricordato la letterina che ha scritto, l'hai sentito anche Tavecchio che era arrabbiato, no? Ha detto i padri del calcio, sì, ce l'aveva con lui. Io volevo semplicemente spiegarvi perché non avete colto, no. E ve lo dico con l'umiltà del grande padre del calcio, perché io ho vinto un mondiale, se vi ricordate, no. E sono anche il padre delle gabbie, no. E delle ripartenze non esistevano, hai vinto il, come può testimoniare anche Pier Pardo. Però non hai vinto però facciamo chiarezza storica, non hai vinto il mondiale. Ma potete mettermi di nuovo la base? No. Perché se no io non riesco a leggere la letterina che ho scritto a Giampiero Ventura. Ci vuole assolutamente quella base, perché dobbiamo entrare con tutto il nostro trasporto emozionale. Aspetta, facciamo così, la facciamo dopo il traffico. Però poi basta, Arrigo, basta. Oh, traffico e torniamo. C'è anche Antonio da Napoli. Sì. Complimenti vivissimi. Tutti convocati. Questo si fa fatica, ragazzi. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Caro Giampiero, così non va. Volevo rettificare perché Capuano e Pardo non hanno colto a pieno le mie impressioni. Io non volevo assolutamente criticarti. Ecco. Io sono solamente il grande padre del calcio. Ho semplicemente rivoluzionato il calcio moderno. Sì. Ma volevo dirti, in umiltà, caro Gian, in totale assoluta, completa umiltà. Caro Giampiero, così non va. Ci hai fatto fare una figura da Lanzichenecchi, no. Solo che gli appestati erano meglio. Io non volevo criticarti. E dopo il primo tempo con la Spagna ho avuto riflusso gastrico e conati di vomito. Ma la mia è una constatazione, non è una critica. Ma figuriamoci. Pier, è dalle 5. Antonio da Napoli, Antonio, basta adesso. Antonio da Napoli, siamo seri. Antonio, eccoci. Buonasera, dai. Grazie per l'opportunità, anche se l'attesa è stata un poco... Vabbè, comunque, però è stata piacevole, c'era Arrigo, insomma, la letterina. Dai, non sì, lamentarti vabbè. Anche tu, su. No, figuratevi, per l'amore di Dio. Io aspetto da due settimane, da tre settimane, e dai, questa Antonio. Cosa e tutto quanto, non ho la bacchetta di Harry Potter. Antonio. Ma questo chi è quest'altro? Sai che Mihajlovic è sempre in coda a fare le interviste. Dai, vabbè. Comunque io volevo accodarmi agli altri due ascoltatori sì. Che hanno detto quello che hanno detto loro. Anch'io mi associo a loro. Ventura per me deve lavorare, come si dice dalle mie parti, facitus agueta, non orate fastidi, e quindi lasciatelo lavorare tranquillamente, diciamo. Confido molto in lui, questo è, volevo dire. Com'è che hai detto, Pier? Facitelo sta quieto. Facitelo sta quieto. Cosa vuol dire? Fatelo stare tranquillo. Ma noi siamo tutti con Ventura, è che però insomma il tema è aperto, ma non perché lo diciamo noi, l'avete sentito prima anche il presidente federale. Poi questa sera c'è una grande notizia per tutti i tifosi granati, questa sera c'è l'Italtoro, adesso parliamo con uno di loro. Lancio lungo a cercare Immobile, pallone interessante, Immobile! Fantastico il gol di Ciro Immobile! La firma anche allo Stadio Olimpico. Calcio di rigore per il Torino. Parte Belotti che sbatte Buffon e il gol dell'1-2. Il Toro rientra in partita. Saluto Ciccio Graziani, ciao Ciccio. Ciao, eccomi qua. Dimmi se la suggestione funziona, non so cosa ne pensi anche tu Pierluigi, cioè Immobile e Belotti un po' come Pulice e Graziani, che se non sbaglio in nazionale fecero insieme 10 partite, segnando 12 gol. Confermi Ciccio? Confermo, e devo dire che in nazionale abbiamo giocato troppo poco insieme, ma sai, in nazionale la concorrenza è talmente alta. Che erano fiori di calciatori, no? Uno su tutti Bettega, che era un giocatore straordinario. Però abbiamo fatto la storia di una società giocando insieme per 8 anni. Voi pensate che in 8 anni, quando ce la si giocava a 16 squadre, abbiamo fatto solo di campionato 200 gol precisi, 102 lui e 98 io. È un bel biglietto da visita. Sì, è un bel vedere. Che effetto vi fa, chiedo anche per Luigi Pardo, insomma, una coppia d'attaccanti del Toro? Beh, in nazionale. A parte che adesso cioè, Immobile gioca della Lazio, questo va ricordato. Sì, però stiamo parlando di quel Toro lì, viene da Ventura. Sì, hai ragione, non l'abbiamo precisato, evitiamo di uscire. Dico perché insomma, in questo momento giustamente c'è lo gol della Lazio e credo che Simone Inzaghi, al di là dei meriti del giocatore, stia avendo anche lui i suoi meriti nel rimettere. Sì, però c'è credo molto di Ventura anche nel fatto ma che sicuro, sia rientrato. Sicuro, insomma, anche nel fatto Belotti, che Ventura sia CT. Sì, io credo che sinceramente su Belotti, Ventura secondo me si era un po' perso. Ho avuto modo anche di parlare col CT prima che diventasse CT su quello che stava facendo Immobile, che mi sembra un giocatore straordinario, soprattutto quando deve attaccare la profondità, invece nelle sue esperienze all'estero si era un po' snaturato, spesso veniva a cercare il pallone qualche metro dietro, invece è un giocatore che deve andare profondo, e da quel punto di vista ha delle enormi qualità. Belotti è un talento purissimo, è un giocatore che Ventura stima, come del resto lo stimiamo tutti, è una bella suggestione sicuramente, ma è una suggestione che in qualche modo deriva anche dal fatto che il Torino in questi ultimi anni è cresciuto molto, ed è cresciuto molto all'italiana, nel senso che veramente da questo punto di vista rappresenta quasi un modello, no? Premesso che poi ci sono altri modelli che possono funzionare, l'Udinese ha funzionato per tanti anni su un modello invece tipo internazionale dei migliori giovani presi da ogni capo del mondo. Il Torino negli ultimi anni è cresciuto e ha investito tantissimo sugli italiani, e oggi questa soddisfazione, in qualche modo questa peculiarità di Immobile e Belotti, coppia titolare della nazionale, lo racconta. Mi ha molto incuriosito che Graziani abbia definito Belotti il suo erede. In alcuni momenti ci somigliamo, perché anche lui correva Gobbo un po' come correvo io, e questa grande partecipazione nelle fasi di gioco, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Un po' ci assomigliamo per come interpretavo il calcio io e come lo interpreta lui. Mi verrebbe da dire una cosa: ma Cairo, prima di dare il bel servito a Immobile, ma non ci poteva pensare qualche minuto in più? Perché oggi vedere questa coppia in nazionale e non vederla più nel Toro, un po' mi fa riflettere, un po' mi dispiace. Credo che Cairo se lo sarebbe tenuto volentieri. Mi ricordo che ci aveva raccontato a giugno di averci provato, di aspettare una risposta. Risposta che evidentemente poi non è arrivata. Immobile aveva in mente altro. Volevo chiedere a Francesco Graziani, che insomma la nazionale l'ha frequentata abbastanza e ha visto anche un CT ad esempio particolare come Berzot nei rapporti, che idea si è fatto della cacciata di Pellè? Mi sembra giusto. Adesso bisogna partire anche da un altro presupposto: un'altra chance a questo ragazzo bisognerà dargliela, ecco. Certo. Il comportamento è stato irriguardoso nei confronti della maglia, che è una maglia speciale, nei confronti di una persona che comunque gli ha sempre dato la maglia da titolare, perché anche con Ventura lui è sempre partito titolare, e anche per rispetto del compagno che entra. Cioè, sono cose che non te le puoi permettere. Io penso che lui si sia in poco tempo, con quel rigore agli europei e con questo atteggiamento, si sia un po' giocata l'immagine. Però diamogli un'altra chance, perché mi sembra, io non lo conosco, ma mi sembra così a pelle che sia un bravo ragazzo, tu lo vedi. Ogni mamma vorrebbe avere un figliolo in quel modo, non c'ha tatuaggi, non c'ha orecchini, sempre ben pettinato, elegante. Io non so cosa gli sia successo in quella circostanza, mi ha stupito il comportamento di Pellè, perché non me l'aspettavo. Sì, è la famosa vena che si chiude. Ha parecchie fidanzate? Anche parecchie fidanzate vorrebbero avere per lei intorno. Beh, insomma, che sia effettivamente un gran bel ragazzo. Ma al di là di questo, non lo so, io mi occupo d'altro. Però, detto questo, io penso che, ecco, Ciccio ha raccontato esattamente con la misura dell'uomo di calcio e della persona di buon senso quello che è. Cioè, poi oggi veramente tutto viene ingigantito, perché ogni cosa porta a delle polemiche feroci, e questo mi fa abbastanza paura, perché veramente vuol dire che abbiamo perso la misura, abbiamo perso veramente il senso delle cose. Per lei ha fatto una cazzata, punto. E questo è stato mandato via per dare un messaggio a lui, per dare un messaggio al gruppo. Non credo che sia, poi bisogna vedere com'è finita negli spogliatoi, che cosa c'è stato dopo, ma credo che insomma alla fine ci siano state le scuse, e Ventura ha preferito comunque lanciare questo messaggio a Pellè e a tutti gli altri giocatori nazionali. Ci sta la tua lettura della quale parlavi prima, no? È anche in qualche modo un modo per renderlo più forte. È anche un po' populista questa scelta, però io credo che Ventura non l'abbia fatta per cercare il consenso da parte dei follower o degli appassionati, ma semplicemente per dare un messaggio forte al gruppo. Ed è un messaggio che secondo me ci sta, perché questa è una maglia speciale, va onorata, e come diceva giustamente Ciccio, poi non è che è successo qualcosa di clamoroso, cioè non è che t'hanno tolto dopo 7 minuti, no, t'hanno tolto certo, dopo un'ora di gioco. In cui tra l'altro insomma hai fatto fatica, ma insieme a tutti gli altri. Non solo per colpa tua. E poi salutiamo Ciccio Graziani, lo lasciamo ai suoi impegni, ma un CT diventa più forte dentro uno spogliatoio dopo una vicenda così, gestita così? Non so se diventa più forte, però io credo che avrà sicuramente maggiore attenzione e maggior rispetto. A parte che tutti i ragazzi della nazionale sono tutti ragazzi intelligenti, bravi, è difficile vedere un gesto del genere, ma Ventura è forte perché ha colloquio continuo con i calciatori, ha delle responsabilità che le porta avanti anche molto bene. Non so se diventa più forte, ma insomma diventa più credibile nelle cose, perché se uno poi sbaglia lo sanno che lui interviene, non le lascia passare le cose, giustamente. Grazie Ciccio. Ciao Ciccio, posso dirti una cosa in 30 secondi? Sì, che è un po' un auspicio, un po' una speranza. Sì. Cioè, Sappiamo quello che è il comportamento medio degli italiani, no? Intesi come, come giocatori della nazionale, noi abbiamo bisogno di stimoli forti, di sentirsi un po' sotto pressione. A me sembra che il tipo di clima che c'è attorno a Ventura in questo momento sia abbastanza senza precedenti, cioè c'è una grande attenzione e anche un po' di apprensione, un po' per la formula che oggettivamente è complicata con la Spagna nel girone, un po' perché c'è un allenatore nuovo e ovviamente non c'è più Antonio Conte e questo in qualche modo può spaventare qualcuno. E io spero che questo si trasformi in qualcosa di positivo, in un auspicio, cioè il mio auspicio è questo, perché mi sembra per possiamo essere, dire, possiamo per essere dire Pier, ottobre, magari no? Si crea quell'effetto Fortino, loro dentro, sì, tutti gli altri fuori. Spero, perché, perché di solito alla terza partita, la seconda o terza partita di un percorso di qualificazione a un mondiale europeo, la nazionale era un tema abbastanza secondario. Oggi invece c'è questo tipo di clima di tensione, di agitazione che spero e penso che possa far bene alla nazionale. Poi la Spagna è più forte, quindi non dipenderà solo da noi. Il stuperone, stuperone Pardo, devo farti rettificare. Io vorrei, vorrei spezzare una lancia a favore di Pellè. Nessuno di voi, né Capuano né tu, stuperone Pardo, avete capito perché Pellè non ha dato la mano a Ventura. Non l'avete detto, capito. No. Voi ricordate la mano nelle mutande di Lowe, l'allenatore della Germania? Sì. Ecco, sì. Meditate. No, non è vero. Ci fermiamo per due minuti, torniamo. Non è vero. Torniamo non subito. Sentiamo. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Convocati. Pellè è andato via perché credo che abbia avuto un atteggiamento completamente errato nei confronti di tutti, nei confronti del compagno che entra, nei confronti dei compagni di squadra, ma credo che la cosa altrettanto grave è proprio che è un comportamento che ha un po' annacquato l'immagine di questo gruppo. Credo che questo sia stato una cosa assolutamente disdicevole, secondo me. Era inevitabile l'atteggiamento, al di là della gravità delle parole, c'era anche un atteggiamento estetico che è andato su tutto il mondo. Abbiamo visto il nostro mister con la mano aperta e rifiutarla era inevitabile. Questi Ventura e Tavecchio sulla vicenda Pellè, Marcello da Rimini. Marcello. Sì, buonasera. Eccoci. Capuano. Ciao. Grazie per la convocazione, ma io volevo fare un piccolo parallelo perché sta succedendo più o meno con l'Italia quello che è successo col Brasile tra fine dei mondiali e Coppa America. Hanno voluto puntare su Dunga, una terza scelta, una seconda, una quarta scelta, e dopodiché sembrava che anche per loro fosse la pochezza della qualità dei nuovi, delle nuove generazioni. Invece si è scoperto nelle ultime tre partite, potrà averlo notato anche lei, che con l'arrivo di Cicci dal Corinthians il Brasile ha preso un'altra direzione e gli uomini sono gli stessi, perché cambi nelle convocazioni ne ha fatti pochi, a parte togliere Riccardo Oliveira, che io direi che andare alla Coppa America con, sì, Riccardo Oliveira doveva essere titolare, è una cosa un po' imbarazzante. E quindi secondo me molte volte il metodo, l'uomo giusto, e Cicci si è rivelato per il Brasile, è quello che può cambiare la rotta di una nazionale. Concludo dicendo che se l'Italia perde o pareggia in Spagna, dopo passare come secondi non è una cosa facile. Però si può anche provarci, Marcello. Adesso non facciamoci la testa prima di essercela rotta. Pier, io credo anche, Pier, non so se condividi, che i primi 60 minuti di Italia-Spagna però possano anche essere salutari. Già stasera vediamo, arrivano quelli nati nel 90. Insomma, magari Ventura avrà capito che conviene accelerare. Sì, Ventura non è Dunga, innanzitutto. Ventura è un buon allenatore italiano che per tanti anni ha fatto buone cose. Questo è il punto di partenza. Cioè, Ventura non è diverso da Prandelli, non è distante dalla dimensione di Prandelli o di altri CT. Ripeto, l'anomalia è stata Conte. L'anomalia è stato Conte, perché Conte, in quella famosa estate della elezione di Tavecchio, che tra l'altro aveva i suoi casini dal punto di vista mediatico, aveva bisogno di qualcosa di importante, ha fatto secondo me un capolavoro, ha preso l'allenatore facendolo pagare in buona parte addirittura lo sponsor, ha preso il miglior allenatore che poteva prendere, mi ricordo che facciamo questo discorso in quell'estate lì, e io sono convinto, dopo 2 anni e mezzo, che comunque Conte abbia fatto il suo. Detto questo, ha ragione anche Ventura quando dice, in maniera un po' piccata, che partite clamorose nelle qualificazioni dell'Italia di Conte non se ne ricorda, ci sono state molte, no? Ecco, nel senso che questo va detto, Conte ha fatto un capolavoro contro la Spagna, ha fatto complessivamente un buon europeo, è un grande allenatore, ci fidiamo di lui perché sappiamo che tira fuori il meglio dai giocatori e l'ha dimostrato in qualche modo anche in questo europeo, anche nella dimensione della nazionale. E non sono stati 2 anni facili, quelli di Conte con la nazionale, non sono stati 2 anni di rose e fiori, sono stati 2 anni di polemiche, di discussioni, di stage. Insomma, non è che proprio sia stato tutto liscissimo, però certamente Conte rimane una grande personalità e quella è stata una scelta positiva. La media degli allenatori delle nazionali è assolutamente, Ventura ci sta dentro alla grandissima in questa media qui di allenatori delle nazionali, e credo però, ribadisco, che questo tipo di cioè il combinato risposto, come dicevano i politici di una volta, di un girone molto difficile, di un allenatore come Conte che non c'è più e che quindi insomma siamo tutti un po', no, orfani, ha lasciato tante vedove e quindi questo crea un clima francamente esagerato, secondo me, di pressione, ma che spero e penso che possa essere positivo, perché oggi siamo alla terza partita del girone in Macedonia e c'è un'attenzione su questa nazionale, una preoccupazione su questa nazionale che non c'era mai, non c'è prima, mai stata. Anche sul playoff, diciamo la verità, il girone li vediamo, c'è un girone con Francia e Olanda che è complicatissimo perché uno arriva alla seconda, ma in assoluto, insomma, non voglio dire, facciamo, anzi tocchiamo ferro, Italia e Irlanda del Nord ce la teniamo, Italia-Scozia ce la sì, però, come... però è oggettivamente presto. Fammi salutare Max Nerozzi a proposito di Macedonia, inviato della Stampa. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Si sta creando un po' questo effetto Fortino, cioè Ventura e i giocatori dentro e gli altri fuori, che poi è sempre stato buono per noi. Bisogna vedere se Ventura riesce a fare il Fortino con i giocatori, perché Pier diceva siamo tutti orfani di Conte, io in cui in tutti c'è il rischio che ci siano anche i giocatori. Stai respirando questo? Un po' sì, secondo me. Bisogna vedere come andrà la squadra. Pier diceva che non è facile farla, penso che non sia facile per Ventura anche le due amichevoli che gli hanno piazzato. Io capisco che la Federcalcio debba anche fare incassi, introiti, ma onestamente fare esperimenti con Germania a novembre e Olanda a marzo la vedo molto dura. Pier? Sì, ma sicuramente è tutto in salita, ma questo lui lo sa da prima di cominciare, quindi... francamente, che vogliamo fare? Cioè, nel senso, adesso cioè che Ventura non sia Conte, che non abbia lo stesso tipo di fascinazione, che non riesca a produrre lo stesso tipo di pace, no? È indiscutibile. Detto questo, è il commissario tecnico della nostra nazionale, è sicuramente un bravo allenatore e una bravissima persona, su questo credo non ci siano dubbi, nei limiti del possibile, ovviamente nel diritto di cronaca e di critica, quella prima ora con la Spagna è stata imbarazzante, siamo gli vicino, sta cercando di costruire un tipo di Italia. Partendo ovviamente dalla base di Conte e introducendo degli elementi nuovi pian piano, io direi di stargli vicino. Questo è quello che penso io. Poi sicuramente la strada è complicata, ribadisco, playoff se non ci dice clamorosamente sfiga, ammesso che ovviamente possiamo chiudere al secondo posto, è giocabile, cioè pure nel 98 abbiamo avuto bisogno del playoff e l'abbiamo passato con la Russia, non è una cosa, non è un'onta, è che è cambiato oggettivamente la formula, ci sono 16 squadre qualificate e quindi è un po' e quindi da lì dobbiamo passare. Max, c'è qualche novità in più che dobbiamo aspettarci rispetto a quelle che abbiamo letto questa mattina, questa sera a Skopje? Ma guarda, a parte la conferma del lancio di Bernardeschi, lo spiffero lo vuole leggermente più avanzato, insomma la sorpresa sarebbe vedere un 3-4-1-2 non un 3-5-2, però insomma siamo ai dettagli. Sarà curioso vedere un centrocampo con praticamente nuovo, con due mezzali, insomma, che sono improvvisate a questi livelli. Ma secondo te da cosa è dettato? Cioè dalla considerazione che 3 giorni erano troppo pochi per recuperare fisicamente tutti, o anche dalla volontà proprio di sperimentare qualcosa di nuovo? Giustamente tu ricordavi prima, anche le amichevoli non saranno morbide, paradossalmente è più semplice la Macedonia, 146esima del ranking FIFA. Assolutamente, sono tutte e due le ragioni. Uno, Ventura, Giacomo Verciano aveva detto che aveva fatto turnover per motivi fisici, ma anche per motivi tattici. Se ti ricordi il suo primo toro, anche 3-5-2, quando ci passò, usò El Katouri molto bene, che nasceva trequartista, comunque un giocatore di talento e di piede, come mezzala di incursione. E io penso che su Bernardeschi lui voglia lavorare in questo senso. L'unica aggiunta al discorso di Pierre, secondo me, è che il grande errore di Ventura, possiamo stare tutti vicino, ma fu la sua prima pianificazione, cioè tagliando fuori in una nazionale che ha già poco talento Berardi per ragioni di modulo. Io penso che questo continua a essere un non senso. Pierre. No, Berardi va recuperato, sicuramente Berardi va recuperato, anche se francamente faccio fatica a dire che una coppia con Belotti Immobile o lo stesso Pellè sia nettamente inferiore a Berardi. Certamente Berardi è un talento di questa nazionale che lì davanti non ne ha molto, quindi non posso far altro che ripetere le cose che dicevo in quei giorni. Secondo me è stato un errore farsi condizionare così tanto dal modulo, ed è stata anche un po' un'ingenuità da parte di Ventura averlo detto così tranquillamente, perché questo è un mondo strano dove tante volte è meglio una mezza verità piuttosto che una cosa detta invece col massimo della trasparenza, ma che non dire. Quindi da questo punto di vista, secondo me, quell'uscita lì l'ha esposto delle ulteriori critiche. Berardi è un talento, è un giocatore da recuperare, non è un giocatore, secondo me, oggettivamente a 360 gradi indiscutibilmente di un'altra categoria rispetto a quelli che ci sono in nazionale, quindi non è che stiamo rinunciando a un talento così superiore, però sicuramente è un giocatore che deve riportare al centro del gruppo, e secondo me se non lo fa per motivi di modulo, tra l'altro tutti un po' anche da dimostrare, perché io non è che sia così convinto che Berardi non possa giocare nel 3-5-2, credo che farebbe un errore, ma io sono sicuro che lo riporterà. Penso che abbia avuto una partenza complicata proprio per il discorso del girone che facevamo prima, e perché la base di Conte è una base dalla quale non puoi non partire, e poi pian piano arriveranno gli esperimenti. Grazie Max. Ciao a voi, buona serata. Ciao Max, grazie Max Nerozzi. Un minuto, dai, Bruno da Genova. Bruno. Ciao. Eccoci, dai. Ciao. Allora, posso un po' di critica? Sì, quello che vuoi. Un attimo. Secondo me Ventura è un mediocre, non ha vinto nulla in tutta la sua storia. Non sono d'accordo sulla storia dei CT, perché comunque abbiamo avuto dei grandi CT. Se Sacchi non avesse sbagliato rigore, avrebbe vinto i mondiali. C'è poco da imputare a Sacchi dei mondiali americani, se non il rigore che hanno sbagliato due fenomeni come Baresi e Baggio. Prandelli, non è vero che non ha portato niente, perché il terzo tempo in Italia l'ha portato lui, andando contro la federazione, assumendosi una responsabilità enorme quando tutti gli hanno sparato contro, e lui ha portato i giocatori in campo a fine partita a salutare tutti, e non è una cosa da poco. Abbiamo un allenatore mediocre e i giocatori, tra virgolette, mediocri. Pellè è nessuno, perché non è Ronaldo, non è Messi, e quindi non dai la mano, ma chi sei? Uno che prende tanti soldi in Cina. Sì, Pellè ha sbagliato, l'abbiamo detto. Poi per il resto tutto bene, però, Bruno, giusto? Ma sì. Dai, cioè, voglio dire, cosa abbiamo in nazionale? No, per carità, che la nostra nazionale non sia straordinaria, lo stiamo dicendo, ma da mesi, non perché adesso c'è Ventura. E poi sul resto, insomma, ognuno ha le sue opinioni, e mi sembra che noi, Pier, abbiamo espresso le nostre. No, ma prima di procedere, sì, al suicidio, vorrei sommessamente sottolineare che però, allora, se Pellè ha sbagliato e Ventura fa questo gesto, Ventura merita, ecco, no? Merita un apprezzamento. È un po' come il terzo tempo di Prandelli. E poi, insomma, su Prandelli, che io stimo moltissimo, il terzo tempo è una cosa bellissima. Sì, però non è tecnica. Però non è una cosa tecnica, no. Insomma, ecco, tutto qui. Io ribadisco che Ventura non abbia l'appeal di Conte, sono d'accordo, ma è il punto di partenza. Ventura non ha l'appeal di Conte. Abbiamo detto, dai. Traffico, traffico. Tutti convocati. Agli invidiosi. Tutti convocati. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo contro il malocchio. In questo momento sta segnando, ma si sta parlando di un periodo di tempo talmente limitato per cui non va caricato di responsabilità. La realtà deve rimanere quella che è. Ha fatto un campionato di medio livello come quello olandese, che è la prima esperienza in un campionato che per un attaccante penso sia molto più difficile del campionato olandese. Non cominciamo a paragonarlo ai grandi centravanti europei, perché è un ragazzo che deve ancora lavorare. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. L'innominato è il solito legamento anteriore crociato del ginocchio, in questo caso sinistro, se l'è rotto Milik ieri sera giocando in Polonia e Danimarca. In realtà aspettiamo, l'ha detto lui stesso entrando a Villa Stuart per fare tutti gli accertamenti. Sicuramente per il Napoli è una tegola, Pier, qualcosa sì, che rischia di rovinare. Intanto saluto anche Raffaele Auriemma, ciao Raffaele. Buonasera a entrambi, ciao. E quindi, cosa fa il Napoli? Cosa deve fare? Oltre ad aspettare adesso che cosa diranno gli accertamenti. Raffaele? Ah, l'ho chiesto a me, scusami. Sì. Innanzitutto vediamo gli accertamenti, vediamo quali danni ha portato quell'intervento di Vestergaard sul ginocchio di Milik. Perché se è una lesione parziale si parla di 4 mesi, se è una lesione totale se ne parla di 6. Comunque gran parte della stagione ormai è andata. Io credo che il Napoli aspetterà fino alla partita di sabato contro la Roma, poi dopo deciderà se intervenire sul mercato degli svincolati, come a me sembra ormai certo, per poi prendere un attaccante a gennaio e rinforzare il reparto. Ma per prendere chi? C'è Klose, Osvaldo, De Bayor, Makeda, Berbatov, sto facendo alcuni dei nomi di quelli liberi che si possono prendere subito. Cioè, c'è un nome che può aiutare il Napoli, Raffaele, poi Pier? Ma ce n'è solo uno, è quello di Miroslav Klose. Soltanto quel tipo di calciatore, non solo per le sue capacità, ma anche per il carattere, potrebbe essere un elemento che può portare benefici al Napoli in questo momento e non danni, perché bisogna stare molto attenti a inserire uno spogliatoio un elemento che potrebbe risultare di contrasto. Miroslav Klose ha smesso di giocare da pochissimo, ha 38 anni, però al pari di Totti è un calciatore che è rimasto sempre integro e se ha degli stimoli potrebbe anche interessargli una proposta del Napoli. Pier, c'è chi dice anche Osvaldo. Sì, ma francamente la vedo, su Osvaldo la vedo dura, perché mi sembra che ci siamo proprio perse le tracce. Il Napoli ha una grande quantità di attaccanti forti e ha una maniera di giocare che porta tanti giocatori a andare a segno, quindi il problema è relativo, certo è un problema, però sono Klose, quasi tutti esterni. Sono quasi tutti esterni, c'è Gabbiadini che si può chiaramente adattare in quel ruolo lì, sì, servirebbe il Duvan Zapata dei tempi. Guarda, io ho fatto due conti, tra Champions League e campionato prima di Natale sono 15 partite. Sì, ma dal punto di vista, guarda, dal punto di vista della possibilità di giocare anche con... Aspetta che è saltata la linea, Raffaele. Ma hai detto bene, sono 15 partite che serviranno al Napoli e a Gabbiadini per dimostrare quanto carattere hanno tutti e due. Mi riferisco al tecnico Sarri e al calciatore Gabbiadini. L'uno deve venire incontro all'altro. È arrivato il momento per Gabbiadini di crescere, di diventare un calciatore vero, al pari di Sarri, che gli manca quel tantino per fare il salto di qualità e diventare un allenatore di prima fascia. Quel tantino si chiama adattarsi ai calciatori di cui disponi, perché la squadra forte conta un elemento in meno che si chiama Milik o chi che sia. Bene, si va avanti lo stesso, siamo una squadra forte, faremo tranquillamente a meno, faremo in altro modo. Secondo te Pier Sarri è pronto un po' a cambiare un po', perché qualcosa deve cambiare nella costruzione del suo modo di giocare davanti, perché Gabbiadini non è Milik, così come non era Higuain. Sì, però stavo dicendo che secondo me è chiaro che è una brutta notizia, sicuramente non c'è dubbio, è quasi banale dirlo, è una grande sfiga, però il Napoli è attrezzato lì davanti, è vero che nessuno è centrale. Il giocatore che si avvicina di più a quel tipo di ruolo è Gabbiadini. Secondo me la sostanza è che se fai la scelta giusta, se becchi il nome giusto, puoi trovare una soluzione importante, ma se devi andare a prendere qualcuno tanto per prenderlo non risolvi. Il Napoli ha una pluralità di soluzioni offensive che fanno sì che Mertens segni, che Insigne, che qui non è successo, ma insomma abbia dei gol nelle gambe, che Gabbiadini ovviamente molto più coinvolto possa avere dei gol nelle gambe, che Hamsik e Kajekon possano segnare tanto. Insomma, io non la vedo così drammatica fino a gennaio, non la vedo così drammatica fino a gennaio, e secondo me devi prendere uno solo se sei perché non puoi essere se sei convinto che ti possa aiutare, ragionevolmente convinto che possa, e questo sono d'accordo con Raffaele, cioè se è Klose per ciò che rappresenta, per l'esperienza che ha e per anche, mi viene da dire, la professionalità che ha, non voglio parlare male di Adebayor o di Osvaldo, però insomma io non mi andrei a imperagare in storie più complicate. Ecco, Klose è uno che ha dimostrato alla Lazio in tutta la carriera in Germania di essere un giocatore che se ha voglia, poi c'è un giocatore di Cina un sacco di soldi dietro, se ha voglia di misurarsi in questa esperienza, voglia, può essere fare, utile, assolutamente. Può essere utile, però stiamo parlando chiaramente di un giocatore non giovane che e il resto è nei piedini, che ha la sua grande occasione. Grazie Pier, a domani. Ciao. A domani dopo il genere del 14, tra l'altro torna Carlo Genta, così rispondiamo ai tanti che ci scrivono. Grazie Raffaele. Grazie a te, buona serata a tutti. Grazie anche a Raffaele Auriemma, io ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Andrea Roccabella in regia, Andro Mercucchi con noi, il nostro Sacchi. Caro Giampiero, così non va. Domani dopo il genere del 14, ciao.